2024 2024 di Enrico Pagliarini. Eccoci qui, una nuova puntata di 2024, la prima puntata della nostra versione estiva per tutto il periodo estivo luglio-agosto e inizio di settembre. Il nostro programma viene ridotto ad una mezz'ora, ma come sempre nella nostra versione podcast cercheremo di offrirvi contenuti aggiuntivi, quindi le nostre interviste in versione integrale. Io sono Enrico Pagliarini, bentornati. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Questo è il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. La prossima settimana ci sarà Digital Venice, quindi Venezia Digitale, una settimana di incontri dedicati all'economia, alla società, al governo digitale. Il giorno più importante per alcuni, poi dipende dai punti di vista, potrebbe essere martedì 8, quando ci sarà il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e anche la Commissaria Europea all'Agenda Digitale, commissaria in scadenza perché i commissari verranno rinnovati verso l'autunno, Neelie Kroes. Allora, non ci aspettiamo granché, non mi sembra che il governo italiano sia nelle condizioni per annunciare grandi cose sul fronte digitale, di cui invece avremmo grande bisogno. Manca ancora il nome del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, quindi figuriamoci che cos'altro possiamo fare se non siamo in grado di selezionare il direttore dopo che è stato già fatto il bando da una decina di giorni. Allora, ci sono però notizie positive, perché il governo sta lavorando ad un progetto di rete di prossima generazione, Next Generation Network, in fibra ottica. Il modello a cui si sta pensando è basato su una società pubblica che gestisce la rete, e sarebbe ora di accelerare su questo progetto, un progetto bancabile, come si dice, sostenibile. Un business sarebbe per lo Stato nel medio e lungo periodo, perché tutti pagherebbero per transitare su questa rete, operatori e naturalmente cittadini, e poi libererebbe anche il mercato dalla dipendenza dalla rete Telecom Italia, che deve essere notificata e ci devono essere regole decise dall'autorità per transitare sulla rete Telecom. Insomma, si semplificherebbe la struttura della rete internet e sarebbe molto più facile creare una economia, una società digitale su questa rete. Allora, altra novità interessante riguarda il compenso per copia privata, quel prelievo che viene fatto su smartphone, tablet, hard disk e qualsiasi cosa possa archiviare dati digitali. Allora, questi sono soldi che finiscono nelle casse della SIAE, che poi paga autori ed editori, e va a compensare gli autori ed editori per la copia che noi facciamo di un contenuto acquistato legalmente. Questo va tenuto, qua non c'entra niente nulla la pirateria. Allora, il decreto firmato dal ministro Franceschini attende ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma noi lo abbiamo consultato e a questo punto si possono leggere tutti gli aumenti che gravano su smartphone, tablet, computer, hard disk. Stiamo parlando di una stima di parecchi milioni, parliamo di 150 milioni di euro in un anno. Naturalmente questa è una stima, ma sono soldi che poi in gran parte verranno pagati dai consumatori, in parte minore forse le grandi aziende si faranno carico di assorbire questi aumenti nei prezzi, nel costo dei terminali. Allora, su smartphone e tablet si pagheranno dai 3 ai 5,2 euro. Computer 5,2 euro senza limiti di capacità, perché appunto su smartphone e tablet dipende dalla capacità. Gli hard disk pagheranno un centesimo a gigabyte con un massimo di 20 euro, ma vista la capienza dei moderni hard disk, che ormai viaggiano su un tera, due tera, allora molti pagheranno 20 euro, ma pensate, su prodotti che costano 100 euro o addirittura meno, sarà il 20-30% del costo di un prodotto di questo tipo. Poi ci si chiede perché uno compra dalla Gran Bretagna che non ha questo compenso, quindi stiamo parlando di un 20-30% di soldi che finiscono alla SIAE su un prodotto di questo tipo. Altre novità che si leggono nel decreto, alcune potrebbero essere messe nel capitolo assurdità. Allora, pensate che questo compenso si pagherà sui televisori che hanno la funzione di videoregistrazione, ma visto che per utilizzare questa funzione ci vuole anche un hard disk esterno o una chiavetta, beh, non si paga solo sul televisore 4 euro, ma si paga anche sull'hard disk, quindi doppia imposizione. si pagherà ad esempio su, visto che si paga su tutti i supporti di memoria, anche sul Compact Flash, che oggi si utilizzano quasi oramai solo e unicamente sulle fotocamere reflex, quindi non si capisce perché uno dovrebbe pagare per fare le foto magari al proprio figlio in spiaggia. Allora, se volete maggiori dettagli andate sul sito internet del Sole 24 Ore, abbiamo pubblicato il decreto che non è ancora nella sua versione, cioè è praticamente quello ufficiale, però diciamo l'ufficialità viene data dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sole24ore.com, un quadro completo con delle tabelle molto ben fatte, le trovate anche su dday.it. Adesso abbiamo alcune notizie in breve della settimana, le nostre DN, Digital News. Digital News. Una delle prossime frontiere del software e della connettività saranno i veicoli. La Linux Foundation ha ufficialmente annunciato la disponibilità di Automotive Grade Linux, una piattaforma basata su Linux per realizzare sistemi di bordo per le automobili. Si tratta di una distribuzione costruita attorno ad una versione che si chiama Tizen IVI, In Vehicle Infotainment. A proposito di intelligenza artificiale, di automazione, questo settore si espande anche nei mestieri intellettuali come quello dei giornalisti, ai noi. Anche la Associated Press, l'agenzia AP, ha cominciato a fare scrivere a dei computer in maniera automatica gli articoli relativi ai bilanci delle aziende, in particolare quelli compresi tra le 150 e le 300 parole, quindi si danno in pasto al computer dei numeri e il computer, capendo di che cosa sta parlando, il significato di questi numeri, fa un articolo e dice: questa azienda ha fatturato tot, ha avuto tot di utile. Associated Press sostiene di poter passare da 300 a 4.400 report di bilanci aziendali ogni anno. Digital News. Dopo Panasonic, anche Samsung abbandonerà la tecnologia plasma per concentrarsi sull'OLED. In effetti la qualità dei plasma è arrivata ad un punto tale che meglio di così non si può fare, si può solo concentrare le ricerche sugli OLED, i cui prezzi sono però ancora al momento molto alti. Quindi il consiglio che vi diamo una volta di più è quello di, se trovate un prodotto ad un buon prezzo, comprare plasma, perché fra poco non ci saranno più e oggi la miglior qualità di visione la si può ottenere sui plasma. Google ha acquistato Songza, una società specializzata nella creazione di playlist musicali basate sull'umore o su determinati luoghi o momenti, quindi che ne so, c'è la playlist per la spiaggia oppure la playlist per quando si fa sport, poi dipende anche dai gusti di ognuno. Google molto probabilmente utilizzerà il know-how per i servizi di streaming audio e video. Anche in Italia c'è una società che fa una cosa simile che si chiama Stereo Mood. Digital News. Ultima notizia, secondo i nuovi dati di Kantar, Android rimane di gran lunga il sistema operativo più diffuso su smartphone e tablet anche in Italia, con una quota del 75,5%, seguito da iOS al 12,5% e Windows Phone quasi al 10%. Per una settimana tra l'11 e il 18 gennaio del 2012 un team di ricercatori, sia universitari che di Facebook, ha fatto un esperimento, ha manipolato i post che ci vengono notificati attraverso il news feed, se conoscete Facebook, insomma sono stati e notizie che arrivano dai nostri amici. Allora, sono stati modificati riducendo artificialmente quelli negativi e poi un altro esperimento è stato fatto riducendo quelli positivi, quindi aumentando i post solo di un certo tipo per capire come gli utenti reagiscono. Allora, si è verificato che il nostro umore è influenzato dal contesto e uno potrebbe dire: vabbè, avete dovuto fare un esperimento su, pensate, 689.000 persone. Però c'è stata una conferma e soprattutto la cosa interessante è che una cosa del genere su un social network non era mai stata fatta. Allora, oltre al fatto che in molti si domandano se sia lecito fare una cosa del genere, ma molto probabilmente sì, perché quando ci si iscrive a un social network si accettano tutta una serie di condizioni, tuttavia un'organizzazione che si dedica alla privacy digitale negli Stati Uniti si è rivolta al Dipartimento del Commercio americano dicendo: ma secondo noi questa cosa non si può fare. Ma al di là di questo, molti si domandano quanto questi strumenti possono essere utilizzati per influenzare grandi masse di popolazione. Ricordiamo che sono circa quasi 1,5 miliardi le persone che sono iscritte a Facebook, ma ci sono tanti altri social network e la popolazione di internet è di alcuni miliardi di persone e sta crescendo di mese in mese in tutto il mondo, e sicuramente questo è un tema molto molto importante. Ne abbiamo parlato con due dei nostri esperti. Iniziamo con Matteo Flora, fondatore di The Fool, esperto di social media, di security. Ecco il parere di Matteo Flora. Beh, è una dinamica normale della realtà. Il concetto della information bubble, della bolla di informazione che mi circonda, dove io non vedo tutto quello che accade, ma ne vedo solo una parte vicina a me, adesso diventa problematico nella rete perché è possibile farlo con un algoritmo. Ma nella realtà dei fatti, se ci pensi, è un qualcosa che succede da una vita, in tutti i media. Se io compro Repubblica o io compro il Corriere, io compro un'altra testata, io so già che vedrò delle informazioni, magari le stesse, magari no, già connotate rispetto a una mia sensibilità. Nella rete io penso che queste informazioni siano non mediate, ma mi sbaglio. Mi sbaglio per tanti motivi. Mi sbaglio perché, ad esempio, le persone che io seguo su Twitter, ad esempio, rappresentano già una scelta di che cosa io voglio andare a vedere. Se io inizio a seguire solo profili di persone palesemente di estrema destra o di estrema sinistra, per banalizzare, so già che vedrò delle informazioni di un tipo piuttosto che di un altro. Il problema non è quello. Finché scelgo io di voler vedere delle informazioni connotate politicamente, culturalmente, eticamente, filosoficamente, non vi sono problemi. Il problema appare quando io non sono conscio del fatto che qualcuno perturba quello che io vedo a seconda di una finalità. Ci sono modi in cui questa cosa è più o meno lecita o siamo abituati a vederla. L'advertising. Perché si fa tanto la pubblicità online? Perché si è fatto tanto scalpore, tanto clamore per fare in modo che fosse assolutamente sempre possibile riconoscere la pubblicità dai contenuti normali, anche nei motori di ricerca, non importa quali. Perché io devo sapere che quel risultato che vedo in cima è lì perché è sponsorizzato, non perché è il migliore, non perché è il primo. Questa cosa non è successa nell'esperimento. Questa cosa è stata alterata in maniera forzosa, senza che l'utente lo sapesse. E quindi io mi sono trovato a non vedere delle notizie o non vedere degli status di miei amici perché qualcuno ha deciso che non dovevo vederli, senza chiedere il mio preventivo consenso. Quella è la problematica del riferimento. Questa cosa si fa normalmente. Tecnicamente, tutta la parte di digital PR si basa sul cambio di attenzione. Io recluto a parlare del mio prodotto e del mio servizio un personaggio in vista, uno di quelli che viene chiamato influencer, cioè una persona che ha un vasto seguito, ma lo invito per questo motivo, cioè lo invito perché so che mi porterà positività all'interno di una nicchia. Funziona. Finché questa cosa è adamantina, o perlomeno è riconoscibile, non ci sono problemi. Il problema succede quando questa cosa non è adamantina. Se ci pensi, è la stessa cosa che succede in una vita con i giornalisti. Il giornalista che fa un publi redazionale, un articolo a pagamento sponsorizzato magari da un prodotto, basta che lo dica. E l'utente lo sa. Se non lo dice, rientriamo nello stesso grigio etico di un motore di ricerca o di un social network che cambia senza dire niente quello che io vedo. Sì, la cosa interessante o la cosa preoccupante è che qui stiamo parlando di social network o di strumenti internet in generale che hanno una quantità di persone iscritte, di utenti, che supera, potremmo addirittura dire, i limiti della immaginazione umana. Quindi stiamo parlando di dinamiche che, se non sono trasparenti, possono cambiare alcune dinamiche dell'opinione pubblica, o addirittura anche possiamo pensare a degli scenari ancora più gravi. Sì, da una vita, in realtà non sono così convinto che impattino una quantità così grande di popolazione. Impattano una quantità di popolazione che probabilmente è la stessa, se non un filo inferiore a quella che legge normalmente i quotidiani o che vede normalmente la televisione. Il problema è che qui è più facile farlo in maniera mirata e programmatica. Io posso già prendere degli utenti profilati in un certo modo, quindi posso già prendere quelli che io so, ad esempio, essere contro una mia idea e fare targeting, quindi bersagliare proprio quelli. Ed è lì che viene la problematica più grande. I governi di tutto il mondo da anni, da decenni, utilizzano sistemi di distrazione di massa, con il gioco di parole tra weapon of mass destruction e distraction, cioè distruzione o distrazione. C'è anche un nome tecnico che è PSYOP, Psychological Operations, operazioni che sono volte a modificare l'opinione pubblica. Ce n'è stata una che è stata abbastanza contestata negli Stati Uniti ultimamente ed era l'effort dei servizi segreti americani per lanciare una sorta di clone di Twitter a Cuba, fatto palesemente per spingere l'opinione pubblica a una maggiore partecipazione e una volontà di libertà online. Ma tutti i governi l'hanno fatto, dalla pioggia di volantini durante la Seconda Guerra Mondiale che dicevano che questa o quest'altra parte aveva perso solo per demoralizzare le persone, dalla contraffazione della moneta. Si tratta di modificare come la gente pensa, come lo si fa. L'esperimento dice che, anche nella pratica, che quello che pensa la maggior parte dei miei contatti, o quello che mi si dice che pensa la maggior parte dei miei contatti, è un'opinione che io tenderò a seguire. E se ci pensi, è una declinazione digitale del chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Battute a parte, è proprio quello. Tendo ad uniformarmi, così sembra, alle emozioni e forse anche alle ideologie delle persone che mi circondano. Ed è pericolosissimo nel web. Perché? Perché nella realtà dei fatti non so mai se quello che mi viene prospettato è l'intero quadro e quali sono le dinamiche per cui un certo contenuto mi viene presentato. Perché tante persone in giro per il mondo, perché tanti attivisti della rete, tanti esperti dicono che è necessaria una trasparenza sugli algoritmi? Proprio perché l'algoritmo, se opaco, non mi dà nessun tipo di possibilità di comprendere come io vengo individuato da questi tipi di contenuti, ed è potenzialmente pericoloso. Non dico che lo sia già, poi da paranoico potrei anche pensarci, però non dico che in questo momento il problema sia un algoritmo deviato, dico solo che è impossibile pensare che io non sia in grado di verificare questo tipo di problematica. Un altro punto di vista ce lo offre David Orban. Sentiremo tra poco una parte dell'intervista che abbiamo realizzato con David Orban, docente e technology evangelist alla Singularity University, sul emotional computing, quindi la capacità delle macchine e dei computer di partecipare al processo emozionale tipico degli uomini, un ulteriore passo che vedremo nei prossimi anni di quel capitolo che chiamiamo intelligenza artificiale. Questo è 2024, parleremo anche dei numeri della rete internet italiana. Quanti sono i navigatori della rete internet italiana, da computer, da tablet, da smartphone? Ne parliamo tra poco. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Stiamo parlando dell'esperimento di cui parla tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni. Stanno parlando molto di questo esperimento, un po' per le polemiche, perché appunto non queste 689.000 persone iscritte a Facebook non sapevano che c'era che il news feed, quindi che le notifiche dello stato dei propri amici veniva manipolato da questi ricercatori, solo per una settimana, quindi non è che è successa una cosa gravissima, però è stato alterato riducendo o aumentando le notifiche con umore negativo e positivo per vedere la reazione. Allora, se ne sta parlando molto perché poi di mezzo non ci sono solo i ricercatori che manualmente hanno fatto queste operazioni, ma esistono degli algoritmi che capiscono e comprendono l'umore che noi esprimiamo in quello che scriviamo nella rete internet. E proprio sugli algoritmi e sulla capacità delle macchine di interpretare o di modificare l'umore si giocherà una buona parte della dinamica di internet nei prossimi anni. E proprio su questo ci offre uno sguardo diverso David Orban. In effetti io vorrei offrire proprio una lettura in questa chiave di questo esperimento di Facebook, che secondo me è solo l'inizio di un nuovo e importante capitolo in quello che è l'insieme delle capacità dei computer e come noi interagiamo con i computer. Siamo abituati ad avere computer che riescono a riconoscere un testo attraverso la funzione di OCR, riconoscimento ottico dei caratteri, oppure i computer che riconoscono il parlato. Sempre di più parliamo ai nostri cellulari o per dettare un messaggio di testo oppure per dare dei comandi. E quello di Facebook è appunto il nuovo capitolo dove i computer cominciano a capire le emozioni umane. Stiamo però parlando di un esperimento dove l'intervento umano è stato molto forte, quindi in questo caso non sono state le macchine a introdurre degli elementi comprendendo, diciamo, il contesto, ma sono stati i ricercatori a fare tutto ciò. Ogni elemento che ho menzionato prima è composto di due parti, la parte di lettura e la parte di scrittura. Quando noi passiamo un foglio attraverso lo scanner e ne effettuiamo la lettura, quando diamo l'ordine al computer di stampare, facciamo l'operazione di scrittura. Gli operatori di Facebook hanno fatto altrettanto. Sono andati oltre a leggere le emozioni umane, si sono chiesti: è possibile scrivere le emozioni umane? E hanno deciso di effettivamente inoltrarsi in un territorio molto pericoloso, ma i rischi sono necessari nel momento in cui vogliamo esplorare il nuovo. Verrà verificato se hanno violato qualche regolamento o di tipo deontologico, oppure relativi agli accordi di licenza che vengono sottoscritti con i loro utilizzatori. Ma quello che io trovo importante è che appunto sarà sempre di più possibile creare programmi che intervengono in una maniera da gestire correttamente quello che è un contesto molto più ampio e che appunto include lo stato emotivo, potendolo capire e potendolo influenzare. Questo è sicuramente molto interessante. Lo si chiama con un termine che ci fa comprendere già alcune cose, ma ti chiederei di spiegarci meglio che cos'è l'emotional computing, la capacità appunto delle macchine di comprendere, ma immagino appunto non solo comprendere, le emozioni. Quando i computer erano semplicemente dotati di tastiera, l'unico modo per loro di conoscere il mondo era attraverso quello che gli immettevamo attraverso questa periferica. Poi li abbiamo dotati di telecamere e le miliardi di fotografie che scattiamo quotidianamente disegnano in una maniera sempre più approfondita il mondo attorno a noi, di cui i computer approfittano per guidarci meglio quando vogliamo parcheggiare in un posto sconosciuto e cerchiamo l'ufficio dove stiamo andando, oppure quando ricerchiamo un'illustrazione per la prossima presentazione che vogliamo dare, ed è sufficiente dare una descrizione a Google e ci riporta immagini di tutti i tipi, magari già ordinati per rilevanza oppure per il tipo di licenza che possiamo utilizzare. La prossima frontiera dell'emotional computing includerà questa serie di parametri fondamentali della vita umana, proprio perché questo ibrido che stiamo costruendo di computer e società umana possa fare passi avanti nel capirsi reciprocamente. Ti faccio un esempio. Se io sono nervoso e il mio smartwatch con il sensore di battito cardiaco e di conduttività della pelle deduce che lo sono, può tranquillamente cominciare a programmare autonomamente una playlist che mi tranquillizzi, perché sa che sto per ricevere una telefonata importante consultando il mio calendario. Questo scenario non è fantascientifico, è perfettamente alla portata delle applicazioni di oggi, e l'emotional computing è quello che riassume queste possibilità, guidando gli sviluppatori appunto verso queste nuove frontiere. Ci stai quindi anche dicendo che tutto ciò funziona ed è più efficiente tanto più noi diamo nostre informazioni, siamo disponibili a dare nostre informazioni a queste macchine che poi le utilizzano anche nell'esempio che tu ci hai spiegato. Le decisioni pro e contro di che tipo di ridefinizione siamo disposti a dare della sfera della privacy sono di dibattito quotidiano. Nel momento in cui i regolamenti sui dati relativi alla salute, che oggi sono super protetti, fanno sì che noi non possiamo condividere questi dati con sistemi sempre più sofisticati di elaborazione e di aggregazione, dobbiamo renderci conto di quali sono anche i costi di queste decisioni. Il chairman di Google, Eric Schmidt, ha dichiarato recentemente che hanno abbandonato Google Health, che appunto permetteva di aggregare dati sulla salute, perché la regolamentazione era troppo complessa, troppo farraginosa e troppo piena di rischi, e che stimano che avrebbero potuto salvare all'incirca 100.000 vite all'anno attraverso degli interventi che agivano sulla correlazione di queste informazioni. Quindi la nostra società deve costantemente chiedersi qual è l'equilibrio giusto, quali sono gli obiettivi, che cosa siamo disposti a ricevere come beneficio, quali sono i rischi che non siamo disposti dall'altra parte a correre. Adesso parliamo della popolazione residente su internet, potremmo definirla così. Allora, esiste un sistema per misurare quante persone usano la rete internet con una certa assiduità, si chiama AudiWeb, che appunto misura l'audience della rete internet prevalentemente per poi dare questi dati a chi fa pubblicità, che deve sapere se un sito internet è visitato da, deve saperlo, da una terza parte, più o meno indipendente, insomma dovrebbe essere indipendente, che appunto certifica le persone che sono frequenti visitatori di quel sito internet. Allora, questa ricerca viene effettuata sulla base di 40.000 persone che su un computer, sono rappresentative della popolazione italiana, sul proprio computer hanno un software che misura la navigazione che queste persone fanno ogni giorno. Poi ci sono anche 10.000 interviste, ma la novità di questa settimana presentata da AudiWeb è che, oltre alla misurazione, che oramai era un po' limitata, della navigazione da PC, da computer, la novità è che si misura anche chi utilizza internet, che va su internet da tablet e soprattutto smartphone, quindi in mobilità. Ci sono aziende che si riempono la bocca dicendo mobile first, mobile only, tutto mobile, tutto mobile, tutto mobile. Bisogna anche misurare questo mobile, perché sennò ci perdiamo un pezzo del mondo. Anita Panizza ne ha parlato con Enrico Gasperini, che è il presidente di AudiWeb, partendo però non dai dati nuovi, ma cercando di partire dai dati di l'altro ieri, potremmo dire, cioè quante erano le persone solo relative al mondo computer, dal proprio computer, quante persone navigano su internet, e poi facciamo un passo in avanti e guardiamo anche al mondo mobile. Su PC, fino ad oggi, la ricerca internet su PC esiste da 6 anni, che è a regime, e fino ad oggi avevamo un'utenza che sulla fascia tra 18 e 74 anni ci dava circa 24 milioni di utenti, di italiani, che ogni mese navigano attraverso PC da casa o da lavoro, e circa 12,5 milioni nel giorno medio. Sto facendo i dati di marzo, giusto per avere un punto di riferimento. E veniamo quindi alla novità. Quali dati nuovi è in grado di fornirci oggi AudiWeb? Da oggi AudiWeb si amplia, quindi ha allargato la propria ricerca dopo una fase sperimentale durata 6 mesi e su un progetto che è stato lanciato circa 2 anni fa, e oltre ai PC prende in considerazione anche la parte mobile, ovvero gli smartphone e i tablet, che come sappiamo stanno crescendo molto in termini di utilizzo e popolarità nel nostro paese. Quindi la piattaforma AudiWeb non è più la Internet Audience su PC, ma la chiamiamo la Total Digital Audience da oggi. Quindi da oggi sono rilasciati anche i dati sia per gli smartphone che per i tablet nel nostro paese, sempre su una fascia di età dai 18 anni in su. Tutti questi dati vanno a comporre un unico database dove su tutti i vari schermi i panelisti vengono monitorati in tutti i loro comportamenti in ogni ora del giorno e ogni giorno del mese per ognuno di questi schermi, quindi con la possibilità di vedere il singolo individuo come si muove fra i vari schermi nel corso della giornata, così come una singola property, un editore, come viene fruito attraverso quali schermi nel corso della giornata. Ipotizziamo che un utente utilizzi per navigare sia il PC, sia il tablet, sia il proprio smartphone, utilizzando quelli che lei definisce tre schermi. Questa navigazione viene rilevata come se fossero tre utenti distinti o riuscita ad integrare i dati nell'utente unico? È un utente unico. Noi siamo interessati alla Total Digital Audience proprio nel senso degli utenti unici, cioè gli stessi utenti in modo user-centric, come si muovono fra i vari schermi e che caratteristiche sociodemografiche e profili hanno. Che cosa emerge dunque da questi dati? Quali sono le abitudini di navigazione degli italiani in mobilità? Anzitutto emerge un dato molto importante, che gli italiani in mobilità spendono già oggi nel mese più tempo connessi online di quanto facciano solo da PC. Quindi il numero delle navigazioni e delle funzioni di applicazione sfiora le 40 ore mensile per utente medio contro le 20 ore da PC. Quindi l'inserimento di questi schermi allarga tantissimo la base di utilizzo, il time budget passato sulla rete, e allarga anche il numero degli individui unici nel corso della giornata, che non sono più solo 12,5 milioni da PC, ma diventano quasi 20 milioni. Cioè ogni giorno 20 milioni di italiani da PC o da smartphone o da tablet navigano sulla rete. Che tipo di utente è quello che naviga quindi utilizzando smartphone, tablet? Ci sono delle differenze in termini di età o altre caratteristiche rispetto all'utenza abituata al vecchio PC? Ci sono ovviamente alcune differenze sia di età che di altre caratteristiche sociodemografiche. Ad esempio, il numero degli utenti che utilizzano più schermi alla volta, quindi più multi-screen surfer, come le chiamiamo noi, sono utenti più giovani. Cioè il 91% degli utenti da 18 a 24 anni usa simultaneamente più di uno schermo nel corso della giornata. E gli utenti invece più di età superiore ai 50 sono quelli che sono più innamorati del PC only, quindi quelli che sono più legati a un singolo schermo e usano più frequentemente quello piuttosto che spostarsi da uno schermo all'altro. Che cosa fanno principalmente gli italiani online? Penso al commercio elettronico, si informano, quali attività sono prevalenti? Beh, diciamo, gli italiani fanno molte cose, nel senso che contrariamente a quanto si dice, non siamo così indietro nell'utilizzo, nelle modalità di utilizzo della rete. Siamo solo più indietro degli altri paesi, soprattutto sul comprare servizi e merci, quindi sulla parte di commercio elettronico in senso stretto. Per il resto comunque siamo un paese in cui la rete è diffusa in maniera abbastanza importante. Siamo soprattutto dei chiacchieroni, quindi siamo dei fanatici utilizzatori di chat, social network, eccetera eccetera. Questo lo vediamo sia un po' su tutti gli schermi, anche e sul mobile, in particolare sugli smartphone. Le applicazioni dei social network la fanno da leone. E questo era Enrico Gasperini, presidente di AudiWeb, intervistato da Anita Panizza. Sui dati nuovi che sono stati diffusi in settimana, sono oltre 25 milioni le persone, questa famosa Total Digital Audience, quindi tutte le persone che da uno schermo o da un altro, o anche sommando schermi, perché ci sono appunto persone, come avete sentito, che utilizzano, e immagino sia l'esperienza anche di molti di voi, che quando sono fermi su una scrivania preferiscono, come me, un bel computer potente con un bello schermo, e invece quando uno è in mobilità oppure sul divano il tablet, e quando è in mobilità lo smartphone, insomma, però sempre uno va però calcolato nel numero corretto, nella quantità corretta, quindi una persona, tanti schermi, tante ore online, eccetera eccetera. sicuramente possiamo fare meglio. È in parte vero che siamo a livello di alcuni paesi europei, sono un po' più pessimista, nel senso che dovremmo fare di più, dovremmo chiacchierare meno, utilizzare meno le stupidaggini online e fare anche cose più serie. Ci sono tanti servizi che si possono utilizzare, anche della pubblica amministrazione. Devo dire che critichiamo spesso la pubblica amministrazione, ma ci sono già molti servizi della pubblica amministrazione online che funzionano anche abbastanza bene. Che ne so, pagare le multe, consultare alcuni documenti, oppure pagare le tasse, tutte cose che si possono già fare online e si possono fare direttamente senza delegare a degli esperti. Insomma, basta applicarsi un pochettino a capire alcune cose e si possono fare tante cose anche con la pubblica amministrazione. Questa è 2024, versione podcast. Vi abbiamo proposto le nostre interviste in versione integrale. Come sempre vi ringraziamo per l'ascolto, per aver scaricato questa puntata o ascoltata in streaming. Questa è la prima delle nostre puntate in versione un po' ridotta per l'estate, visto che dobbiamo spendere, consumare le nostre ferie anche durante l'estate. Lavoriamo in modo più veloce, facendo solo mezz'ora, ma insomma ci sono tante combinazioni da incastrare nel nostro palinsesto, quindi questa è la scelta, ma la scelta fondamentale è quella di continuare comunque ad andare in onda senza alcuna pausa per tutte le settimane, le 52 settimane dell'anno. Dal 1999 non abbiamo perso una settimana, vabbè, una volta eravamo quotidiani addirittura. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana. 2024.